E adesso ascoltiamo il secondo brano, che è Il tuo divano. Bravissimo. E così adesso, se no mi cazza Mayday, e l'ascoltiamo qui su Route 66 a Radio Cortina. Dare tempo al tempo, ma chi l'ha detta questa cazzata? Ci vuole forse una vita intera per essere sicuri di averla vissuta. Dare tempo al tempo è un'ottima via per mandarsi a fanculo, per evitare di sprecare il fiato vomitandosi addosso un altro rifiuto. Sono tutti diversi da te, forse sei l'unico uguale a te stesso. Pensa che spreco comprenderlo adesso. A volte vivi per fingere di essere qualcuno che non sei stato mai. Al primo accenno di cambiamento ti tiri subito fuori dai guai. Non serve a niente provare a cambiare. Nella routine c'è il tuo pasto migliore. Ascolti i razzisti sul quarto canale, ti sembrano pure delle brave persone. Sono tutti diversi da te, forse sei l'unico uguale a te stesso. Pensa che spreco comprenderlo adesso. Come mai hai dato tutto per scontato, come se tutto il tuo futuro potessi cambiarlo con il telecomando. Ti sei soltanto addormentato, sperando che il cambiamento non fosse troppo lontano dal tuo divano, dal tuo divano. L'anima mettila in pace, sappiamo bene come andrà a finire. Scenderai in piazza per protestare contro l'aborto e la patrimoniale, per questo Dio che ti ha fatto italiano. Spariamo al ladro, baciamo il rosario, apriamo le labbra, togliamo ogni dubbio sulla conoscenza del dizionario. Sono tutti diversi da te, forse diversi non sono poi tanto. Guardali bene, guardali a fondo. Come mai hai dato tutto per scontato, come se tutto il tuo futuro potessi cambiarlo con il telecomando. Ti sei soltanto addormentato, sperando che il cambiamento non fosse troppo lontano dal tuo divano. Fosse troppo lontano dal tuo divano, dal tuo divano. Come mai ho perso tempo a raccontare la tua storiella provinciale a chi di certo può capire la differenza sostanziale tra un uomo ed un maiale?